riescoci a tornare a 5. Ho visto portato sotto i nostri palinsetti perché Pipe lo poppa. Siamo basta con la musica, basta. Basta con la musica, basta. Basta con la musica, basta. Basta. Basta. Bene, adesso ti può commentare in maniera seria e professionale.